Radio 24 Reportage. Zika, il virus che in Brasile minaccia un'intera generazione. Di Lorenzo Simoncelli. I am now declaring that the recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America, following a similar cluster of French Polynesia in 2014, constitutes a public health emergency of international concern. Mancava solo l'annuncio ufficiale di Margaret Chan, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo Zika virus, il nuovo patogeno trasmesso all'uomo dalla puntura della zanzara Aedes aegypti, si sta diffondendo a macchia d'olio nelle Americhe e rappresenta un'emergenza planetaria per la salute dell'essere umano. Almeno per il momento i sintomi sono simili a quelli di una forte influenza, ma i casi accertati sono oltre 1,5 milioni solo in Brasile, il paese più colpito dall'epidemia. E le stime prevedono oltre 4 milioni di contagi nelle Americhe entro la fine del 2016. O Ministério da Saúde confirmou oficialmente hoje que existe uma ligação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia no Nordeste. Secondo la TV brasiliana e la comunità scientifica, esisterebbe una correlazione tra lo Zika virus e l'aumento dei casi di microcefalia. Sindrome che non permette al feto di sviluppare completamente funzioni fisiche e cognitive. L'allarme è scattato lo scorso ottobre a Recife, nel nord-est del Brasile, quando l'ospedale Osvaldo Cruz della città brasiliana ha iniziato a ricevere un numero di neonati con sospetta microcefalia ben superiore alla media. Le madri, durante la gravidanza, erano tutte state contagiate dal nuovo patogeno. Recebem nesses casos de microcefalia, porque normalmente a gente já recebe infecções congênitas. Desde setembro nós estamos acompanhando. Atualmente já está em torno de pelo menos 300 crianças sendo vistas aqui dentro das notificadas. Negli anni scorsi i casi di microcefalia nello stato di Pernambuco erano circa 15 all'anno, 150 in tutto il Brasile, spiega la dottoressa Angela Rocha, primaria di infettivologia pediatrica all'ospedale Osvaldo Cruz di Recife. Ma da settembre ad oggi abbiamo visitato almeno 300 bambini. Quasi tutti avevano il cranio inferiore ai 32 centimetri, un tipico segnale della malformazione cerebrale. Dentro da condição dela, o apoio che essa criança vai ter dentro de uma saúde pública. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, i casi accertati di microcefalia sono 404 in tutto il paese. Di questi 153 solo nello stato di Pernambuco, anche se la certezza scientifica della correlazione con lo Zika virus al momento è stata riscontrata solo in 17 situazioni. 4.783 invece i casi sospetti. Ma a guardare bene le teste deformate delle decine di bambini in braccio alle loro mamme in fila per una visita all'ambulatorio dell'ospedale Osvaldo Cruz di Recife, il timore che il numero sia molto maggiore è concreto. Só depois que ela nasceu que eu descobri, na gravidez não foi constatado nenhum exame, não apareceu. Eu fiquei muito desesperada, né? Porque ho scoperto che mia figlia aveva la microcefalia al giorno del parto, racconta Josenilda Soares, 24 anni, madre di Laila Sofia. Nessun esame in gravidanza aveva indicato possibili disturbi cognitivi. Quando il pediatra me l'ha comunicato ero disperata, sotto shock. Non ne avevo mai sentito parlare di questa malattia. Adesso sto iniziando ad informarmi, ma sono molto preoccupata per il futuro di mia figlia. Non ci sono cure e dovrà essere sottoposta a trattamenti specifici per sempre. Aí para mim foi um choque porque eu só fiquei sabendo no outro dia que eu tive ela. Per Laila Sofia e Josenilda, disoccupata e abbandonata dal compagno durante la gestazione, è arrivato il momento della visita. La dottoressa Rocha le mostra l'attack della figlia. Con garbo e semplicità prova a spiegarle un'immagine che non bisogna essere medici per decifrarla. Il cranio della bambina è come se fosse vuoto all'interno. Lo Zika virus, penetrato tramite la placenta, non ne ha permesso lo sviluppo. Josenilda, scossa da un referto che non lascia appello, vorrebbe tornare a casa, ma neanche questo le è concesso. La nostra città per qua sono 11 ore di viaggio, ma a gente sta a casa di una tia mia. Vivo ad 11 ore di distanza da Recife, ci racconta stremata. Sono venuta in autobus, vicino a casa mia non esiste alcun centro di riabilitazione per mia figlia. Non so ancora quando sarà la prossima visita per la Sofia, ma non posso rischiare di perderla. Mi fermerò qui per un po' a casa di una zia. Para voltar, a gente volta aqui de novo. Daí é mais 11 horas de viagem. Intanto, nell'ambulatorio dell'ospedale Osvaldo Cruz di Recife, continuano ad arrivare mamme disperate, giovanissime, la maggior parte costrette a vivere con stipendi da 200 euro al mese, molte obbligate ad abbandonare il lavoro per gestire bambini speciali, come li definiscono i medici. Li paga il mio alloggio e io vou. É, que ele tá comigo o dia a dia, ajuda no que é preciso. Sono in grande difficoltà economica, non lavoro. Il padre del bambino mi ha lasciata e mi paga solo l'affitto. Mi aiutano i miei due fratelli, racconta Joana Benjamin, 32 anni, con in braccio il piccolo Andrea Joanes, segnato dai marchi della microcefalia. Vorrei tornare a lavorare, ma non posso adesso, perché il bambino va seguito e non so a chi lasciarlo. E non tutti hanno con lui la pazienza che ho io come madre. Nem todas as pessoas têm a paciência que a mãe tem. O impacto social deve ser muito grande. A gente, como a gente tem dito, é uma geração de bebês lesados. Então, siamo di fronte a un'emergenza sociale di proporzioni enormi, spiega la primaria di infettivologia pediatrica dello Osvaldo Cruz di Recife. Avremo una generazione di bambini con lesioni cerebrali che difficilmente si riusciranno ad inserire nella società. È fondamentale la stimolazione precoce dei neonati affetti da microcefalia. Ma molte madri non possono permettersi strutture private. Tocca al governo garantire uguali condizioni di accesso alle cure. L'inclusione dessas pessoas na sociedade vai ser molto difficile. O desafio de saúde pública é enorme. Nós estamos fazendo tudo aquilo que está a nosso alcance. Montamos rapidamente um núcleo de desenvolvimento infantil com uma contratação de uma equipe multiprofissional para fazer estimulação precoce dessas crianças. Stiamo facendo il possibile, afferma Gelson Correia, medico e segretario alla salute di Recife. Da gennaio abbiamo creato delle equip specializzate per dare riabilitazione ai bambini affetti da microcefalia, ma da soli non ce la faremo a garantire un buon servizio a tutti. Abbiamo bisogno dello Stato e dei privati. Ou eliminar todas as barreiras sociais que a desigualdade social de uma sociedade como a brasileira acaba apresentando. Então, o setor saúde e o sistema de saúde está se organizando rapidamente para poder acolher essas crianças e oferecer o melhor. Intanto a Recife è stato dichiarato lo stato di emergenza. Solo 10 neuropediatri in una città di 3 milioni e mezzo di abitanti e 4 strutture di abilitazione non sembrano essere sufficienti. Carenze che alimentano due grandi rischi, soprattutto se, come sembra, l'epidemia dovesse continuare inarrestabile. L'aumento di abbandono di bambini affetti da microcefalia per mancanza di risorse da parte dei genitori, un caso si è già verificato, e la crescita di aborti preventivi, vietati per legge in Brasile. Molte madri, colpite dallo Zika virus, anche senza avere la sicurezza che il feto abbia sviluppato la sindrome da microcefalia, preferiscono non rischiare e abortire clandestinamente. Il rumore delle macchine per spargere insetticidi fuori dall'ospedale Osvaldo Cruz è assordante. In una Recife attraversata da canali sporchi e stagnanti, militari, volontari e tecnici ambientali corrono contro il tempo per cercare di eliminare la più grossa quantità possibile di larve di Aedes aegypti, in attesa di un vaccino efficace, l'unico vero rimedio per contrastare lo Zika virus. Soprattutto nelle favelas, però, la collaborazione della popolazione è scarsa. Sporcizia, merce abbandonata per strada e, per ovviare alla siccità di quest'anno, recipienti d'acqua ovunque, il luogo più amato dalle zanzare per deporre le uova. Il carnevale, le temperature tropicali e l'abitudine ormai trentennale all'epidemia di dengue, un virus simile allo Zika trasmesso sempre dall'Aedes, fanno il resto. Tem muito. Muito. Aqui? Os pneus, muitas larvas. All'interno di queste gomme abbandonate è pieno di larve, annuncia Alessandra, uno dei tecnici ambientali che opera a Coqueirao, un quartiere poverissimo di Recife. Dopo pochi minuti viene rintracciato il proprietario, il signor Sivaldo. Gli chiediamo se non sapesse che i copertoni sono uno dei luoghi preferiti dalle zanzare per nidificare. Ma você non sapia che stava cheio de larvas aqui? Como não? Como não tem? Está cheio. La risposta, con tanto di risata, è emblematica. Comprei esse pneu para passar no meu carro. Infelizmente, o ar é diferente. É 14, aí é 15. Eu nem olhei isso. Ho comprato le gomme per la macchina, ma non erano quelle giuste. La mia casa la sto ristrutturando e non c'era spazio, così le ho lasciate per strada per 4 mesi. Lo coloquei, faccio 4 mesi che sta lì, non ti hanno lembrato mai. Incuria e mancanza di rispetto per il vicinato, pecche riscontrate non solo dalle autorità, ma dagli stessi abitanti della comunità. Ma la popolazione, disculpa l'espressione, è molto maleducata, no? Qui la gente è molto maleducata, critica Carla di 32 anni. Lascia spazzatura ovunque, non si interessa dell'ambiente. Ed è normale che poi queste zone siano piene di zanzare. Dello stesso avviso, Lucy, una giovane donna che vende acqua e panini per la strada e che ha perso una sua amica per lo Zika virus. Gente che non liga per queste cose, non quer nem saber. Qui tutti pensano che non toccherà mai a loro e non si interessano alla salute di chi vive nei paraggi. Poi, quando succede, non sanno come reagire ed entrano nel panico. La prima cosa che dovrebbero fare è avere un'igiene maggiore, per loro e per gli altri. Cuidare da casa da persona e nella vizinhança. Un messaggio ripetuto fino allo sfinimento anche dalla presidente del paese, Dilma Rousseff, che nel suo travagliato mandato, dopo la crisi economica, lo scandalo tangenti, deve affrontare anche l'epidemia di Zika virus. Riuscire a debellarlo nell'anno olimpico sarebbe la vittoria più grande. Che il povo brasileiro è capace di ganhar essa guerra. Il povo brasileiro, as igrejas, os sindicatos, o governo. Cada um de nós. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.